come si chiama, il va, e come esatto li controlla, però non può, sanno l'acqua di mare, sono buffati, e poi non troppo a funzionare, non devo passare la tensione giusta, ecco. Guardarmi chi c'ha più competenza, più sentivi. Preso, ho usato dei fili sottili con la rete, sempre, un soldatore normale. Piano piano mi sono messo, ho fatto un lavoro, un bel lavoro ho fatto. E guarda, tipo, siccome era del marito che è deceduto, io l'ho messo a posto, quant'è? 20 euro signora. Io vi lascio un attimino il QRX, poi pensaci a quella cosa che la società secondo me ti fa un bel bene. Società? Anzi, a me queste cose mi divertono, ma sono sincero, mi metto di brutto. Certo, non è troppo, che è? No, allora, metto da parte, tanto lo dico, non è fa per me. E io nel mio piccolo cerco di... cioè, quello piccolo lo risolvo, il grande no. Poi magari capita che riesco a risolverlo. Mi piace troppo, mi piace. Gianluca, prova. Allora, se non vedi a me, e vedi un po' cosa fa. Poi, cosa guardi? Mi sono portato giù fatta lì. Mi sono portato in macchina. Ma non mi ricordo il telefono. Vabbè, fai tu cosa devi fare. Vabbè, di bus. Se vuoi la contrata, se vuoi recuperare i bici. Come le bari tutto quanto? E allora devo andare da contro la burro la lente. Ecco qua, dobbiamo un fuoco qui. Vabbè, per quello che costa la morte morte, ma non vedi, uno si batte un vento, magari. Tutto lì. A me lo so se mi piace fare questi lavoretti qua, fare il microfono, queste cose qui. Ma lo stesso. No, vabbè, io, se ne ti metto a posto, cosa mi da futti? Spendi quello che spendo, vedo adesso, mi su chi è, però ripeto, se è integrato trubusu di Alava, ma come non ne vale la pena. Tutto, dimmi la marca, cosa sono Telesystem per caso? Allora, non so Telesystem. Ecco. Vabbè, la gente se è integrato non gli vale la candida. Ma ti puoi anche informare a un tecnico, glielo porti, non va la candela, dice vai a combattere loro come fai prima. E lì si può recuperare la sera di alimentazione. Integrato, se è buono, si può recuperare. E la potresti mettere un altro che si rimane, si brucia, si è spartato con quelli. A secondo. Sì. Poi a secondo battono, te l'ho detto, i... ma come si chiamano? I... ma gli transura, lì, insomma, i condensatori, esplodono e non ti accende più. Cambi quelli, sono due, vicino alla via della cosa dell'alimentazione. Poi andiamo a vedere, non lo so. Poi se riesco a mettere a posto, ti ripongo a posto, ma tutti nulla di... e se la vedi dopo. No, sono un controllante di Dio, di... sono un controllante di Dio, di già. E per il rumore, di Dio, di ma non è un problema di Dio, di Dio, no, controllavo bene. Ma se la dime, poi lui si tre, tu e piedi la lente. E la quella lente sto controllando, mi. Ma c'è un'alternata sotto? Sì. Hola. Boh, come mai? Si fa solo così. Hola. Avanti al tutto. Partita stasera? Non lo so, partita c'è. Sono deboli segnali. Quello acceso che si è fatto la corrente e si vede praticamente la... come si dice? La spia dell'edge dell'accensione. Ma lo vedo che sono in vasia. Ha attaccato l'alternata, era questo cavolo di coso che ha attaccato Luca, ce l'ho ciabatta, ha attaccato e fa già rientro in una calarrage, vado un po' come. Ma vedi questo trasformatore che va dentro? Così, questo trasformatore che c'ha dentro, piccolino lì. Quello è l'alimentazione. Non lo so. Se non quello, non... Ma non è strano. Ma se tu attendi, che non c'è a fare i canali, io so. Non c'è mai i canali e non... Non anda, come si posso dire, non va. Faccio la spia del led, invece di essere verde, perché quando è spento il standby, quando è spento il telecomando rimane rosso, dopo quando lo accendi rimane verde, finché rimane verde, leggera, proprio non si vede accesa, proprio leggera, quasi con un secondo che si è spenta. Buttalo via. Quando compare di verde, ti accendi a lui, capito? Che hai se buttalo via, avanti? Magari sta tutt'altro. Viso, uno entra la scheda, ciao Franco, e uno no, capito Luca, uno addirittura c'è il coso della scheda. Ciao Franco, e la madre già non so, non lo so sicuri, se ti capi te già sei rimassato i nomi, lo vediamo, dai, avanti fra. E capo, ciao Luca, ciao Gianluca, guarda, ce l'avevo io, non avevo i piedi, era un partito questo resiste, era un partito a ciampa bacca. E cosa dico? Cambia marca, basta che non sia tele system, non mi serve, no, da quando l'hanno fatti, chi si non mi serve né nunca. Io ne ho avuto due, uno si è bruciato direttamente, l'altro non funzionava. Bravo. Adesso vediamo un poco, dai. Come lo dica? Vediamo un pochettino, tanto lo dovrò. Allora, tu vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il sottotitolo? Vuoi far passare il Scendi bussi in mani, Gianlu, era lo stesso. No, stavo passando, sono bocca a bocca, la casiera, non mi sta bottando, non mi sta bottando, ha bottato, andava e andava male. Come ha detto Luca? Però esatto, siccome non fa alzare questo barattino qua, perché appunto fa questo scherzo qui fa, allora lo devo tenere così, che va benissimo, perché intanto il segnale è a posto. Allora, non mi riviti Luca, se non potrei fare la buca, se ne vado, ho avuto un volo goffalo. Ecco qua. E niente, e ora fa così, ci va bene? Ehi, capo. Adesso c'è l'interlanternazza. Allora, senti tu, da me. Io sento qualche cosettina, però adesso spengo questa e sotto con l'altra, fa. Ehi, capo, dai. Adesso l'alimentatore l'ho preso, ce l'ho messo lontano, ce l'ho messo sotto il tavolo. Avanti Luca. Trova anche sento un... Cos'è? Si sente, no? Vabbè, comunque già l'ho colpito, dai. Si sente un rumore tipo... Non so... Vabbè, un rumore di un QRM. Sicuramente se avete ragioni ascolta la rumore di alternata. Vabbè, allora non lo so più, basta che raggio tutto rifatto a nuovo raggio. Ed è proprio una terra proprio dal microfono, però riesce a vedere cosa mettiamo. Perché metto un altro microfono e non lo fa. Metto questo e non fa. Poi è troppo alta la persecazione, riesce a vedere. Vediamo questo. Lo tengo a tutti. Tu senti la cuffata. Infatti adesso non uscirà, è d'accordo, non c'è problema. Non c'è problema. Dove? Gianluca, allora ripeto, se è fattibile si possono aggiustare. Adesso prendiamo un esempio, ti raccomando, tu pare che sei lampato, invece no. Io la verità, se non lo stavo comprando, poi sono sincero, lo stavo comprando. 5, una cosa del genere, ha detto, la stai pure quasi qua, ma quasi mi ha in capo, ma ci vuole mettere di fare i cose, no? Passano le zone, poi prendo, passano a Fusaro, dammi questo, questo, questo e questo, ho preso un euro, non ricordo ancora un euro, sai come lo sta sempre andando, e mi conto in terra, da un conto in terra non ha funzionato, allora sono a posto io, e sta sempre andando con un euro. Giusto là, e va benissimo, vado. Suo, cazzo originale, già lui. Certo che va bene. Perché comprando l'universale non ti fa come ti fa l'originale. Perché l'originale c'ha un suo tardo, c'è un suo coso. Capito? Vabbè, comunque. E mi provo, già andate sotto l'acqua. Allora questo computer, in me è mattamente non si vede, devo capire che è nuovo, quello computer che cazzo l'ha parato un po' di soldi, mi sono guardi, scende di capo, non so, da dove iniziare, non li vedo, erano guardi tutti, poi ho un altro processore, non va bene, si ho un altro processore, non è quello, cioè ci sto buttando 30 euro, è un po' meno per le palle, già diavolo, quindi so. Adesso vedo un po' se riesco, qualche tecnico, vedere un po' se mi ha qualcuno da provare, che se è quello lo compro. Io mi accetto 5 minuti, arrivo subito, vado un attimo in cucina. E poi io non l'ho attaccato. La frano, guarda, come sono tornata? No. Come mai stai fischiando? C'hanno quelle cuffie appoggiate nella nel microfono, adesso me le ho indossate, ok? Ma ecco, infatti, fate gli dite su bruci, ti ho trovato. Ma perché non fa avvicinato al microfono quando c'è le cuffie, fa rientro? Ecco, quello già è vero, quello già è vero. C'hanno la sede della batteria, specialmente l'M300, no? ed è vicino all'uscita dove c'è la bazzetta del circuito dei fili che vanno lì al, diciamo, al moschettone, al capetto. Ma stanno sotto, c'è un tappino di plastica che serve, che ne fa da base dove appoggia la batteria, però dopo la batteria in sé, essendo metallica, secondo me magari può toccare su uno di questi filetti qui, non funziona, perché va di massa, o ti va di fruscia, di solito vogliamo fare, capito? Perché di cui può fare, allora bisogna isolarla la batteria. Ah, capo, sì. Come il DM1000, è lo stesso, dai, c'ha più o meno, è fatto così. Sì, c'è la batteria dietro, no, con il tappino che si, anzi, addirittura si apre tutto il tappo completamente di dietro, si svita col pomellino, quello che dopo serve anche da fare il gancio dove si appende, no, nella forchettina, quando uno non vuole appendere, c'è anche il gancio dietro con la rondella, no, con cosa tondo. E che fatto quello lì, mi fa anche da tappo, da vite, la vite che finisce tutto il tappo. Sì, anche questo, anche il DM1000 è così. Se vuoi lo muovi da lì e togli tutto il tappo completo. Sì, esatto, anche questo qua fa la stessa indicazione fra. Ma poi il tappetto, davanti, poi il tappetto. Avanti, sì, da ciappa, anni magari. Adesso anche una basso figura, no. Io mi ammento, dico il microfono, quando vuoi la lira, tu stavo 115, 120.000 francesi. Capo, sì, accussava lira, accussava. Beh, Gianlu, dai, che mi sto chiamando a mangiare. Sì, sto bene. Adesso, al 27, posso dire per mai? Ci sentiamo dopo, vai. Ci sentiamo. Ciao Gianlu, ciao Luca, se mi senti. Ci sentiamo più tardi, se ci siamo. Ciao, bravo, grazie, mi sì, penso che sono qua, buon rosso, avanti Gianlu. Sì, ragazzo, buono che brulo, tranquillo. Ma la carica fra dopo, dai, è tranquillo. E ciao. Giuro, te faccio sentire il video più bello che ho fatto. Senti le parole. Quindi dimora su cartelli. Come prendo? Avrai una. Vado in camera. Cazzo, ma cazzo. Stavo facendo le, come si chiama, per la canoa, per fare quella canoa, guarda, allucinante, ragazzi, non va. Quindi? Sempre su di Max. Ma sai che non ho un gesso di Trento, a fianco così, faccio provato a dorare la memoria di canale, non me lo butti peggio, eh? Fame, però non so come la mangia, c'ho sete più che fame, sembra come il picchio. di puro qua, no? Ah. E quindi adesso tocca anche bere. Sì. No, basta bere alcolici, basta, basta. Adesso sì, capisci. Guarda, mi c'è questo problema, veramente va. Bello, bello. Poi a me piace. Lascia un attimo, mi stavo parlando da computer. Sei anche il bisogno tra due anni? Sì. Già. Fatto il dovere. Lo stiamo guardando? Già. Ho detto, il dovere è fatto. Il dovere l'ho fatto. Ma pigliami i bastigli. Sembrava così, poi sono andato una volta che non sentivo lui, sembrava quasi che sono andato da qualcosa da dottorino e parlava di un dappo, sembrava tutto amplificato da quello che uscì. E allora, di quello in tema però che non ce la fai mai a tutti. Sembrava che fossi sordo, non sentivo più nulla, diceva la mia moglie, ma non senti quello che chiama, non sentivo più nulla. Dopo quando me ne l'hanno regalato tutti i dischi che fa vita qua di barriere in stereofonia. Aspetta, mi stanno dicendo una cosa, aspetta. Va. Allora Gianlu, domani lavori. Ma stamattina eri in pattuglia. Ha fatto il giro del porto, ma anche la multa a chi pesca per te. Aspetta, anche a chi pesca per te per la multa. Ma di malattie via, se per dire diventa malosi di malattie via, perché lì non si può più pescare. Vabbè che era sempre un casino, mamma mia. Io non so come la gente faceva a mangiarsi quel pesce, il pesce diesel io l'ho chiamato. La gente sa cosa faceva, si pescava le latte da 3-4 kg. Sì, il gusto c'era a tirarle a fare, però poi se la vendeva al ristorante, chissà la gente che si rimaniava, ti rimanginecci. Ma un attimo Gianni, un secondo, che vado a attaccare il decoder che glielo metto qua, se non sa della vista, non so bene la televisione, così un attimino si guarda la televisione dentro in camera. Il computer, tanto mentre vi aspettavo. Ho scollegato qualcosa e l'ho messo a tiro giù. E niente, mi visto come stai fanno le lampadine, mi curai. Ma vai, da vai, da me. Io c'ero, è che mi stavo dicendo una cosa, ma di qua. Che gli hanno, per quanto ho capito, ma insomma, gli hanno operato il Nicky Day, me lo ha lanciato. Allora l'ha cambiato, solo la conosco da tanti anni, ma sta qua, no? Di cambiarlo, ma è cambiato tanti comunque e ha continuato a fare a Nick, stava segnando questo e basta, poi ho abbassato il volume, hai capito? Sì, sì, ho capito. Facendo questa cosa, Gesù, ma c'è la mia, la sai Gesù, avvicinato, non si macchina come fa nel vento, come voglio inventarti, ma tutti i figli, ma questa è la miera, questa cosa che cacchio fredda. Beh Gianlu, comprate la cosa qua. No, guarda, devo stare a Sassari o Gianni, come capita che devo passare in ufficio che mi ritiro magari qualche cosa di lavoro. Ma se lui lo prende, in settimana ci salirò sicuramente a voi, così di Dio lo vuoi due per Gianluca e si controlla. Sta pagando. Beh, se capito? E lì sono un problema, va, se state il telecomando metti giù, vada a memorizzare. Sure. oggetti di protezione, come la luce, anche fuori campo acqui. Certo, mi fa di buon effetto qua che hanno i cappelli. Riusciamo da vedere. Ma tu lo pensi, no? Il discorso mi fa, mi fa, dico, una lampadina, ma cazzo lo macchinario che hanno costruito, cazzo, se ne vuoi leggere tu? La meccanica, la sequenza, la sincronizzazione, cazzo! Sono fuori del campo, i macchinari sono, secondo me sono più importanti del prodotto che fate. Ogni macchinario fa una cosa, tanti macchinari si chiamano dunque, ma vale tutto Gianlu, come costruiscono i palloni, come fanno tutto, tutto quello che noi vediamo ogni giorno, le scarpe, le di riciclaggio, fondono i materiali vecchi e rifanno, vedi? E fanno le prussiane in questo caso qua. Questa bella che bella che è. Non la vedo un bel attrezzo questa cosa, usando dentata come te, va una presa fenomenale. Su bulloni grossi, a vedere se li molla. Che bulloni qua la tracciate, non mi sa, però è una cazza. Non ha problema, non mi scicchieggia, perché è dentata. Se no la chiave è quella. Io c'ho un papà, l'ho comprato lì da carbone, lì da portatore, sai che sarà là, non vuoi più, faccio un bando, buh. Sto pagando, è dentato, se l'ho pagato 30 euro. Ce la faccio lavoro. Ciao, che qui si è un po' raggiucchiato in punta, cioè manca un po' di... si è consumato. E l'ho trovato delle cose un po' durette, me l'ha talvolto. Ma comunque già ce l'è, anguglia. Già canta ancora, la faccio lavoro. Sì, vabbè, secondo quello che ci trovi, quello sì. Ma se la pinta è buona, la paghi. Cazzo, è forte, non si deve sgranare. Noi gli distribuzioni che sono cromo vanadium, buoni, attrezzatura buona, vero? Io nel 98 lavoravo a Roma, io no? Ho fatto un anno a Roma e Chivi e facciamo termo idraulica. E praticamente appunto mollevamo queste termosifoni, queste tubazioni così, lui attrezzatura buona, Addirittura è meglio che quando non mollavano i policiavi così che erano talmente vecchi o ruggenti così, andavamo anche con la fiamma ossidrica, scaldavamo poco e dopo un po' lavavamo, scaldavamo e mollavamo piano piano. Questa è forte, questa è una bella chiave, fenomenale, una bella invenzione regolabile che si avvita con quella di tenere per stringere e allargare. Sì, lo so. Molte volte male, c'è la seconda, capito, non c'hai... Guarda, si va a parlare, dove la parte tua si va giù, la seconda, l'altro molla, la c'è un ghiccia, fa una forza, ce la fai, poi è dentata, non fuggi nulla, ma... Allora, rimane, la barca. Per non bruciare le punte che stanno tagliando, in questo caso che devono fare le sagome, no, vedi come fanno a seguire natura. Questo qui è coidale, ma vedo un po' questo, io ti dico qui, i macchinari che fanno delle cose sono più superiori di l'attrezzo stesso. Cioè, la prendi un dato, per levare il capitolo, così le mani. Scivola, cazzo di andare chissà, la voglia, di lui lusso, di lusso. Ci vuole quella. Con quella non si sbaglia. Gianni. Secondo che sto scrivendo, un attimo. Stai correndo. Pure Gianlu, hai 10 minuti. Scrivendo, sicuramente per me anche meglio. E io so come lo fanno lo skateboard. Mettono tanti fogli di questo legno sottile, no? Di fogli così, lo prestano, incollato e diventa un'unica tavola, diciamo così. Sicuramente per flettere, diventa più robusta. Invece di farla da un pezzo in 3 euro, invece bisogna farlo con tanti fogli incollati che sicuramente c'ha più forza. Mi sembra per forza, me lo vedi, avanti. I capolini di questo capolini di qui, dimmi. Non voglio quello, dimmi. Questa cosa. Io la mattina di Italia con uno che doveva andare a sacco, ma basta. Con la frenzione che mi... un autografo di suo, blu. Questo c'è un autografo, questo che ci rende. Computerizzato c'è una misura, una forza, una sagoma. Ah, quella mi piace a me, ma se ci si può dire un legno, mi... Pensate rapido, con continuo. Cazzo, una pressa da 1500 tonnellate. Minchia. Allora, per fare stato, ma... Il macchinario è robusto, Non so se ho lasciato la lista. Ho sbagliato l'ambiente, Maria. E s'ambienti, allora. Come il programma, Si è andata. Tu che vedi la macchina stare in casa, se ti vedi a male, cara, Già stavamo per zappa. Costruzioni, infatti, no.